Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, noi cominciamo con una notizia appena battuta. Bruxelles, la Commissione Europea raccomanda la concessione all'Albania dello status di candidato all'adesione all'Unione Europea. Nel rapporto sull'allargamento dell'Unione pubblicato oggi a Bruxelles, Tirana dunque incassa un giudizio positivo sui progressi compiuti. E ora parliamo di automobili. Settembre, tra i cinque principali mercati dell'auto in Europa, si è registrato un vero boom delle vendite in Gran Bretagna. Ma sentiamo il punto nel servizio. In settembre si è avuto un dato positivo per il mercato europeo dell'auto, in particolare nell'Unione Europea le immatricolazioni sono salite del 5,4%, questo dipende essenzialmente da una giornata lavorativa in più e però è un dato comunque positivo. In questo contesto il gruppo Fiat non è andato particolarmente bene perché accusa un calo anche in settembre e vede la sua quota scendere dal 5,9% al 5,4%, questo dipende dal fatto che per Fiat conta molto anche nel contesto europeo le vendite in Italia. La situazione italiana del mercato dell'auto è determinata dalla gravissima crisi economica del paese e per quello che riguarda in particolare Fiat vi è un andamento leggermente peggiore per due motivi essenzialmente. Il primo è che Fiat sconta una politica di modelli non particolarmente aggressivo e il secondo è che punta soprattutto a contenere le perdite. E ora il dossier all'Italia. Quando ci sono dubbi sulla natura dell'operazione, cioè se si tratti di aiuti di Stato o meno, gli Stati sarebbero saggi a notificarle a Bruxelles. Così dice il portavoce del commissario alla concorrenza UE, Joachim Almunia, confermando che l'antitrust dell'Unione Europea si aspetta una notifica dall'Italia sull'operazione. Notifica che potrebbe essere chiesta anche per un altro dossier, che è quello che riguarda Peugeot, il costruttore automobilistico francese, che per risollevare le sorti appunto del gruppo Peugeot Citroën, i francesi vorrebbero affidarsi ai cinesi di Dongfeng e all'Eliseo. Si parla di un aumento di capitale da 3 miliardi, di cui la metà sottoscritto da Parigi. Valeria De Rosa ha chiesto appunto se anche in questo caso non si profili un rischio di aiuti di Stato. Risponde Sergio Cofferati, europarlamentare del PD, membro della Commissione Mercato Interno. Anche qui bisogna mettere in conto che prima o dopo un'azienda automobilistica inglese solleverà il problema anche verso la Francia. Io credo che ci sia un ruolo necessario degli Stati a sostegno di attività che riguardano il core business del loro sistema produttivo. La manifattura va difesa in Europa anche con un intervento diretto degli Stati, è stato fatto negli Stati Uniti, non vedo la ragione per la quale non si debba fare anche da noi. Deve valere però per tutti la stessa regola e dunque le normative europee devono essere rispettate dagli italiani, dai francesi e anche dagli inglesi, che non sono esenti da critiche per quanto riguarda la gestione di un'area non piccola dei loro servizi. E ora parliamo di mercato digitale, un mercato davvero pesante, sempre più pesante. Un'indagine della Commissione fa il punto sul sistema. Cresce il mercato digitale in Europa e crescono le preoccupazioni dei consumatori in un settore in cui le pratiche scorrette vanno di pari passo con prodotti e servizi. Nei prossimi 5 anni la spesa globale digitale per divertimenti e media aumenterà di oltre il 12% ogni anno. Secondo un'indagine pubblicata dalla Direzione Generale Consumatori della Commissione Europea, i siti che offrono contenuti digitali pienamente in regola sono l'83%. I più carenti sono i portoghesi, 55%, sotto la media anche l'Italia ferma al 70%. Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Olanda e Belgio sono i paesi in cui la spesa per i giochi online è maggiore, 16 miliardi e mezzo nel 2011. Per numero di giocatori il primato va alla Germania. Secondo lo screening, meno del 60% dei siti di online gambling segnala chiaramente che i giochi offerti sono a pagamento. Crescono in particolare quelli pubblicizzati come gratuiti destinati ai bambini. Nel caso dei siti musicali, il 12% risulta insufficiente dal punto di vista dell'informazione all'utente, percentuale che sale al 21% nel caso degli ebook e al 25% nel caso dei giochi online. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto. Europa 24 torna domani come sempre alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.